البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا بنرجعها. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون. بونجورنو باليستينا su Radio Wombat tutti i mercoledì alle 17.30. La trasmissione di oggi è interamente dedicata alle violazioni della legalità internazionale del regime militare instaurato da Israele nei confronti dei palestinesi. Di questo parleremo con Micol Savia, avvocato da molti anni rappresentante dell'Associazione Internazionale dei Giuristi Democratici, il cui acronimo inglese è IADL, un'organizzazione fondata nel 1946 che riunisce avvocati e giuristi di tutto il mondo con sede presso le Nazioni Unite a Ginevra. Iniziamo dunque con Micol Savia, subito dopo la consueta selezione stampa della settimana e un breve intervallo musicale. Buongiorno Palestina, su Radio Wombat. Sono Lorenzo, vi presento un'anteprima dei 6 articoli della selezione stampa di questa settimana sul sito dell'Associazione Italo-Palestinese. Il primo articolo, dal titolo «Con la Palestina nel cuore, un tuffo nel passato, visitando questo quartiere storico di Nablus», ci parla delle bellezze della città di Nablus, con particolare attenzione al quartiere di Al-Jasmine, il Gelsomino. Nablus è una città antichissima, il cui centro storico è bellissimo e ricco di vestigia del suo passato, a partire dai Romani, poi i Bizantini, ma soprattutto i Mameluchi e gli Ottomani, che fra il XVII e il XVIII secolo ne fecero una città di prima grandezza. Il secondo articolo, invece, ci parla della campagna di arresti israeliani che mira a distruggere un nuovo movimento palestinese. Israele è sempre attenta a soffocare qualsiasi iniziativa che contribuisca a rinsaldare la coscienza e il tessuto sociale palestinese, questa volta se l'è presa con i giovani di sinistra ed impegnati in iniziative sociali, soprattutto studenti universitari, tramite arresti massicci e i soliti vergognosi strumenti della detenzione amministrativa e della tortura. Diversi studenti hanno avuto questo trattamento per aver venduto falafel, ottenuto banchini di libri e caffè a delle manifestazioni studentesche. Il terzo articolo, dal titolo «Hanno distrutto i nostri sogni», i bulldozer israeliani prendono di mira le donne contadine palestinesi. Il 6 dicembre i bulldozer israeliani hanno fatto irruzione nell'area Kallet al-Abbar, distruggendo 3.400 olivi. L'agricoltura, che è la principale fonte di sostentamento dei villaggi palestinesi ed in particolare impiega molte donne, viene duramente colpita dalle autorità israeliane, che così procedono a larghi passi verso il loro progetto di colonizzazione e di insediamento, prima rendendo quasi impossibile continuare a gestire i propri terreni, costringendo i palestinesi a lunghi tragitti o umilianti checkpoint per andare ogni giorno a lavorare, per poi intervenire mano militare nell'annientamento delle loro risorse, come nel caso della distruzione degli olivi. Il prossimo articolo ha titolo «Fatah spaccato sul nodo Barghouti, Hamas punta a vincere». È di Michele Giorgio sul Manifesto. A maggio, almeno secondo i programmi, anche la Palestina dovrebbe affrontare nuove elezioni dopo 15 anni di assenza e potrebbe addirittura riavere un governo comune tra Cisgiordania e Gaza. Hamas ha perso consensi a Gaza, ma mantiene una solida maggioranza e sta invece crescendo nei borghi rurali e periferici in Cisgiordania. Al-Fatah invece, lacerato al suo interno da interessi di parte e dal generale disincanto della popolazione, sembra piuttosto indebolito. Tale debolezza è aggravata dalla decisione di Fatah di ricandidare l'85enne Abu Mazen a fronte di un bisogno di volti nuovi, diciamo così, da parte dei delusi e sofferenti palestinesi. Un evento rivoluzionario di cui si vocifera potrebbe essere la candidatura di Marwan Barghouti alla guida di Al-Fatah, il Mandela palestinese in carcere in Israele da 19 anni. Il quinto articolo ha titolo «In Guatemala ci sono 21 strade denominate Gerusalemme capitale di Israele». Il 19 febbraio l'ambasciatore israeliano ha inaugurato la 21esima strada intitolata Gerusalemme, capitale di Israele. Il Guatemala è stato il secondo paese a trasferire la propria ambasciata a Gerusalemme dopo la dichiarazione di Netanyahu che spostava la capitale a Gerusalemme in aperto sprecio delle indicazioni delle Nazioni Unite e della comunità internazionale. Israele e Guatemala sono grandi amici dell'82, grazie al sostegno in armi e addestramento ai generali golpisti durante il genocidio della popolazione Maya. E oggi Israele donerà 5.000 dosi di vaccino a tale popolo, forse le stesse dosi di cui ostacolano la distribuzione ai palestinesi. Il prossimo articolo titola «L'eroe che ha ammazzato 29 palestinesi». L'emittente statale israeliana ha appena pubblicato un video in cui Itamar Ben-Gvir, candidato di spicco dell'estrema destra, fra i sostenitori di Netanyahu alle prossime elezioni di marzo, nel 1995 inneggiava Baruch Goldstein. Quest'ultimo, Baruch Goldstein, è quel colono di origine statunitense che uccise, aprendo il fuoco in moschea, 29 palestinesi in preghiera e ne ferì 125 durante il Ramadan del 1994 ad Hebron. Queste sono le fonti di ispirazione dei sostenitori di Netanyahu. La selezione stampa di questa settimana è terminata. Gli articoli citati li trovate per intero in italiano e con le rispettive fonti sul sito dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. La linea allo studio. Buongiorno Palestina, siamo oggi in redazione Claudio, Marisa e Gianna con l'avvocato Micol Savia, rappresentante italiana dell'Associazione Internazionale dei Giuristi Democratici presso le Nazioni Unite a Ginevra. All'avvocato Savia chiediamo per prima cosa se ci può dire come opera l'Associazione dei Giuristi Democratici e chi ne fa parte. Buongiorno a voi e grazie mille per avermi invitato a partecipare alla vostra trasmissione. AIDL è un'organizzazione internazionale fondata nel 1906 all'indomani della Seconda Guerra Mondiale da giuristi provenienti da Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica che avevano preso attivamente parte alla lotta contro il nazifascismo e ai processi di Norimberga. Il primo presidente è stato René Cassin, uno dei principali autori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. L'idea è quella di facilitare il contatto tra giuristi di diversi paesi e lavorare insieme per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite. Oggi ne fanno parte associazioni di avvocati di tutto il mondo, per esempio in Italia è membro attivo da molti anni l'Associazione Nazionale dei Giuristi Democratici, che forse conoscerete, mentre in Palestina abbiamo due membri, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Palestinesi e il Centro Palestinese per i Diritti Umani. Ecco, di che cosa si occupa in particolare attualmente l'associazione, oltre che della Palestina? Si occupa anche di altre questioni? Sì, certo, sia IADL nel suo complesso e le associazioni membre si occupano di svariati argomenti che vanno dalla promozione e protezione dei diritti economici e sociali, come il diritto all'alimentazione, il diritto allo sviluppo, il contrasto al razzismo, alla discriminazione di ogni genere, la difesa delle regole del giusto processo e del ruolo importante svolto dagli avvocati. Poi ci occupiamo della situazione relativa a particolari regioni geografiche come appunto la Palestina, ma anche Siria, Sahara occidentale, Turchia, Filippine, Corea e molti altri paesi. Ecco, i crimini commessi da Israele sono evidenti a chi non si accontenta delle versioni mainstream, ma ci può lei elencare quali sono questi crimini sul piano legale, dal punto di vista della legalità internazionale? Da quando è stato creato lo Stato di Israele si è macchiato praticamente di quasi tutti i più gravi crimini previsti dal diritto internazionale. Allora, innanzitutto, come sappiamo, da oltre 50 anni Israele occupa illegalmente la striscia di Gaza, la Cisgiordania, Gerusalemme Est e il Golan siriano, territori conquistati con l'uso della forza durante la guerra dei 6 giorni. Sono centinaia le risoluzioni delle Nazioni Unite che gli intimano di ritirarsi, a cominciare da risoluzioni del proprio Consiglio di sicurezza. L'invasione militare e l'occupazione, così come l'annessione, sono atti di aggressione categoricamente proibiti dal diritto internazionale, perché il divieto di acquisizione di un territorio con la forza e il diritto dei popoli all'autodeterminazione sono principi cardine del diritto internazionale che non ammettono alcun tipo di deroga o eccezione. La guerra di conquista è catalogata come crimine contro la pace fin dai tempi del processo di Norimberga. Inoltre, come sapete, nel 2010 l'Assemblea degli Stati parte allo Statuto di Roma ha deciso di estendere la giurisdizione della Corte Penale Internazionale anche ai crimini di aggressione, tra cui figurano al primo posto invasione, occupazione, annessione, bombardamenti e blocco di porti e coste. Allora, questo per quanto riguarda il crimine di aggressione. E quali gli altri crimini? Totale spregio al diritto internazionale, alle ripetute richieste fategli dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di sicurezza, Israele non solo non si è mai ritirato dai territori illegalmente occupati, ma poco a poco ha cominciato ad annettersi questi territori. Come sapete, nel 1980 si sono di fatto definitivamente annessi Gerusalemme, nell'81 il Golan siriano e adesso è arrivato il turno della Cisgiordania. Come abbiamo visto, l'annessione è un grave atto di aggressione proibito dal diritto internazionale. Va comunque detto che, come ha avuto modo di sottolineare anche la Corte internazionale di giustizia, le decisioni unilaterali con cui Israele decide di imporre le proprie leggi e la propria giurisdizione nei territori palestinesi non può in alcun modo cambiare lo stato giuridico di quei territori che sono e restano territori occupati in cui Israele si trova come potenza occupante. E in quanto potenza occupante nei territori occupati, Israele è tenuto a rispettare le norme del diritto internazionale umanitario e in particolare quelle stabilite dalle convenzioni di Ginevra a protezione di coloro che in caso di conflitto per una ragione o nell'altra o per l'altra si ritrovano nelle mani del nemico e sono pertanto in condizioni di particolare vulnerabilità, e in particolare i prigionieri di guerra, i feriti e la popolazione civile. Queste norme, le norme del diritto internazionale umanitario, che sono fondate su elementari considerazioni di umanità, sono descritte dalla Corte internazionale di giustizia come intransigibili in natura. Tuttavia, come sappiamo tutti, fin dall'inizio dell'occupazione Israele ha ripetutamente e sistematicamente violato tali norme, in particolare quelle stabilite a protezione della popolazione civile, dei civili, e lo ha fatto alla luce del sole, sottoponendo la popolazione siriana, civile siriana e palestinese a ogni tipo di vessazione, detenzioni arbitrarie, esecuzioni extragiudiziali, attacchi militari indiscriminati, privazione dei mezzi di sostentamento, costruzione di insediamenti illegali, trasferimento di popolazione, demolizione di case, punizioni collettive, eccetera, eccetera, potremmo continuare per 2 ore. Tutte le gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra sono crimini di guerra e in quanto tali devono essere giudicati non solo dalla Corte Penale Internazionale, ma anche dai tribunali di tutto il mondo. Ma questa quarta convenzione di Ginevra, di cui lei ci parla, e che obbliga anche un paese come l'Italia a perseguire persone accusate di commettere violazioni, anche se straniere, quando è che è stata stipulata? Nel dopoguerra? Adesso mi viene in mente l'arresto di Pinochet in Inghilterra. Ecco, Pinochet fu arrestato in base a questa norma? Guarda, le convenzioni di Ginevra sono state negoziate e adottate nel 49, all'indomani nel 1949, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, e proprio al fine di evitare che si ripetessero le barbarie che in quella guerra, come sappiamo, le barbarie di quella guerra che, come sappiamo, ha avuto un impatto devastante anche su tutti coloro che non pa prendevano parte alle ostilità, in particolar modo la popolazione civile. Pinochet è stato arrestato sì sulla base di norme relative alla giurisdizione universale, ma non quelle stabilite dalle convenzioni di Ginevra, perché le convenzioni di Ginevra si applicano solo a situazioni, a casi di conflitto armato. Però la giurisdizione universale è stabilita anche per perseguire altri gravi crimini come genocidio, tortura, sparizioni forzate e altri crimini contro l'umanità. Su queste basi che è stato arrestato il dittatore Pinochet. Ecco, ci ha parlato di annessione e di crimini di guerra. C'è dell'altro ancora in termini di violazione della legalità internazionale? Sì, perché Israele è anche responsabile di crimini contro l'umanità, come ben argomentato da un recente rapporto pubblicato dalla Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia occidentale. Alla luce delle prove esistenti, risulta provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Israele sia colpevole di applicare un regime di apartheid contro la popolazione palestinese. Il termine apartheid, come sapete, indica un sistema di discriminazione razziale istituzionalizzato, messo in pratica al fine di stabilire e mantenere il dominio di un gruppo razziale su un altro gruppo e di opprimerlo sistematicamente. L'apartheid, così come definito dalla Convenzione internazionale per la soppressione e la punizione del crimine di apartheid, è un crimine contro l'umanità. Il diritto internazionale non solo lo vieta, ma obbliga tutti gli stati ad adottare le misure necessarie per combatterlo ovunque sia commesso e per punirne i responsabili. Anche in questo caso gli stati hanno l'obbligo di introdurre la giurisdizione universale nei loro ordinamenti interni. Oltre a quello che abbiamo già detto, ci sono ovviamente gravissime violazioni dei diritti umani, perché Israele è parte di quasi tutti i trattati internazionali in materia di diritti umani e quindi obbligato a garantire il rispetto di tali diritti a tutta la popolazione che vive sotto il suo controllo, il che include ovviamente la popolazione palestinese. Sappiamo che le autorità israeliane violano tutti i giorni tutti i diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali di tutti i palestinesi, e lo fanno in forma massiva e sistematica. Ora, abbiamo parlato finora di, anzi, lei ci ha parlato finora di violazione del diritto internazionale, cioè di quei provvedimenti che la comunità internazionale si è data per contrastare guerre e conflitti. Ora, rispetto alle violazioni che compie Israele, come si comporta la comunità internazionale? Questo appena dopo un breve So intervallo musicale. many years of catastrophe, more than 6 million refugees. It could be you and your family, forced from your home and your history. We are the people, and this is our time. Stand up, sing out for Palestine. Your faith or community, this is a crime against humanity. Gaza turned into a prison camp, apartheid war divides the West Bank. We are the people, and this is our time. Stand up, sing out for Palestine. We'll break down the wall, freedom for Palestine. Demand justice. Bye. Buongiorno Palestina, riprendiamo l'incontro con Micol Savia. E a proposito della posizione dell'Italia e della comunità internazionale rispetto alla questione palestinese. Ora, i media descrivono la questione come conflitto israelo-palestinesi. Una prima domanda è se questo ti pare un termine appropriato. Allora, nel contesto giuridico di cui abbiamo parlato, che è caratterizzato da crimini contro la pace, atti di aggressione, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, eccetera, la posizione di quei paesi che come l'Italia continuano a invocare una soluzione negoziata tra le parti per definire ciò che per risolvere ciò che definiscono questione israelo-palestinese è a mio avviso del tutto deprecabile e va fermamente respinta. È come se qualcuno irrompesse in casa tua, ti picchiasse, ti umiliasse, uccidesse tua nonna, ti svuotasse il frigo, si installasse in soggiorno e quando tu chiami la polizia questa ti dicesse di metterti d'accordo col malvivente e trovare una soluzione che vada bene per tutti. Cioè qualcosa di inaccettabile. No? Ristabilire lo stato di diritto è una questione di interesse collettivo. Perché le persistenti e gravi violazioni del diritto internazionale da parte di Israele non solo provocano una sofferenza indicibile al popolo palestinese, ma mettono a repentaglio l'intero sistema di sicurezza collettivo che ci siamo dati. Consentire a Israele, così come a qualsiasi altro Stato, di continuare a violare le più elementari norme della convivenza pacifica senza pagarne mai alcuna conseguenza negativa, crea un precedente pericolosissimo che ha l'effetto di indebolire in generale il rispetto per il diritto internazionale e le istituzioni collettive e la legge della giungla contro lo stato di diritto. Non è una questione israelo-palestinese, i palestinesi sono una categoria di persone internazionalmente protette. L'uso di questa terminologia è volutamente fuorviante. I governi di proprio nel chiaro intento di eludere le loro responsabilità, perché come abbiamo visto i crimini commessi da Israele sono così gravi da imporre comportamenti attivi a tutti i membri della comunità internazionale. Loro non possono dire questa è una questione israelo-palestinese, trovate una soluzione, mettetevi d'accordo e ponete fine alla guerra, no. Ora, ecco, sempre sul piano della legalità, diciamo, c'è uno slogan, una parola d'ordine spesso usata dai palestinesi e estesa anche presso di noi, cioè che è resistere per esistere. Questo è vero che i palestinesi oppongono una resistenza in forme diverse ai soprusi israeliani. La domanda è: quale veste o copertura giuridica ha la resistenza di fronte a un occupante? Dal punto di vista del diritto internazionale, la resistenza dei popoli contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera nell'esercizio del proprio diritto all'autodeterminazione è più che legittima e può essere condotta attraverso ogni mezzo disponibile, inclusa la lotta armata. Tale principio si applica ovviamente anche al popolo palestinese, così come è stato ribadito da innumerevoli risoluzioni delle Nazioni Unite che riconoscono la legittimità della resistenza, inclusa la resistenza armata. Ecco, l'Italia e la comunità europea come si comportano attualmente nei confronti della questione palestinese? Nonostante la gravità del quadro giuridico, nonostante qualche sporadica condanna qua e là, niente ha mai scalfito la posizione di Israele come alleato strategico dei paesi occidentali in Medio Oriente. Anzi, nonostante tutte queste gravi violazioni, la cooperazione militare, tecnica, economica, scientifica con lo Stato israeliano si è continuamente rafforzata. L'Italia, come più in generale l'Unione Europea, mantengono una posizione molto ambigua nei confronti di Israele. Da una parte condannano gli insediamenti nei territori palestinesi come illegali, ma commerciano con essi. Condannano le aggressioni militari, ma commerciano in armi con l'aggressore, e così via dicendo. Tale atteggiamento non solo è ipocrita, ma come abbiamo visto è illegale e di fatto favorisce la perpetrazione dei crimini di Israele. Manca la volontà politica e forse anche il coraggio di affrontare la questione israeliana. Vi dico solo che a Ginevra, dove lavoro io, al Consiglio dei diritti umani, quando ci sono i dibattiti sulla situazione dei diritti umani in Palestina avvengono sotto un tema specifico dell'agenda, che è il tema 7. No? Ogni sessione sotto questo tema si discute la situazione in Palestina e si presentano delle risoluzioni. I paesi occidentali, quando c'è questo dibattito, lo boicottano, escono dalla sala o comunque non prendono mai la parola se non per dire che tutto questo parlare di Palestina è ingiusto e discriminatorio nei confronti di Israele. Gli Stati Uniti d'America, che come sapete si sono ritirati qualche anno fa dal Consiglio, adesso col cambio di amministrazione Trump a Biden hanno deciso di prendere parte ai lavori del Consiglio dei diritti umani, si sono addirittura candidati per il 2022 come membri. Il segretario di Stato Blinken è venuto all'apertura del Consiglio per dire che bisogna eliminare il tema 7 dall'agenda, cioè bisogna eliminare le discussioni sulla Palestina dall'agenda del Consiglio dei diritti umani, che è un fatto di una gravità inaudita. Quindi, se già prima i paesi occidentali boicottavano questi dibattiti, ancora di più lo faranno adesso, se gli Stati Uniti lo pongono quasi come una condizione per il loro tornare in seno al Consiglio. Ecco, questo è il Consiglio per i diritti umani, che è un organo delle Nazioni Unite, però non è l'ONU. Ecco, l'ONU invece che cosa fa? Allora, no, ci sono vari organi delle Nazioni Unite che si occupano della situazione in Palestina, tra di essi il Consiglio dei diritti umani, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e anche il Consiglio di sicurezza. Possiamo dire che l'ONU, nel suo complesso, è l'unica istituzione che ha l'autorità e le competenze per ristabilire lo Stato di diritto e per obbligare Israele a rispettare i propri obblighi, e quindi mettere le basi per una soluzione giusta e pacifica alla situazione che si vive oggigiorno in Palestina. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha più volte dichiarato che le attività di Israele rappresentano una seria e crescente minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. Di fronte a questo tipo di minacce, il Consiglio di sicurezza deve intervenire perché è la sua unica ragione di essere eliminare queste minacce. Allora, nonostante ripetuti solleciti, finora il Consiglio di sicurezza si è limitato a deplorare le gravi violazioni di Israele e a chiedergli di rettificarle, ribadendo più volte la propria determinazione ad esaminare modalità e mezzi pratici per far osservare il diritto internazionale anche a Israele, però non ha mai lanciato nessun avvertimento serio finora. La Carta delle Nazioni Unite prevede che di fronte a atti di aggressione come quelli perpetrati da Israele, il Consiglio di sicurezza può adottare tutte le misure necessarie a ristabilire la pace e la sicurezza internazionali. Queste misure vanno dall'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche, alla rottura delle relazioni diplomatiche e in casi estremi anche all'uso della forza. Il Consiglio di sicurezza dovrebbe quantomeno emettere delle sanzioni economiche contro Israele, che come sapete è quello che fanno anche contro paesi che si sono resi responsabili di violazioni molto meno gravi e sistematiche di quelle commesse da Israele. Beh, siamo un po' in conclusione della nostra trasmissione e volevo chiedere se c'erano delle considerazioni aggiuntive rispetto a quello di cui si è parlato finora. Mi pare che sia estremamente grave questa posizione degli Stati Uniti adesso di ricatto rispetto al Consiglio dei diritti umani, cioè di rientrare solamente se non si parla di Israele. Ora, in questa trasmissione, l'avvocato Savia ci ha elencato le principali violazioni della legalità internazionale da parte di Israele, con la conclusione che la impunità di Israele costituisce una minaccia per tutti. Questo è un avvertimento che il mondo deve saper cogliere per tempo. Con questo concludiamo l'incontro e ringraziamo l'avvocato Micol Savia dell'Associazione Internazionale Giuristi Democratici. Grazie a voi. Il giardino di limoni rappresenta una minaccia reale e immediata per la casa del ministro e per lo Stato di Israele. Pertanto la corte respinge l'appello e ordina lo sradicamento degli alberi. L'ho ereditato da mio padre. Non accetto nessun risarcimento. Andate via! Andate via! Mi sta facendo causa. Cos'hai contro i suoi alberi? I servizi segreti li vogliono abbattere. Io mi fido di loro. Il ministro della difesa ha paura di un po' di limoni. Voi giornalisti state montando un caso che non esiste. Se vinciamo noi, vince l'intera nazione palestinese. Ci deve essere un'altra soluzione. 3.000 anni e nessuno l'ha trovata. Che vuoi da me? È ora che qualcuno la trovi. Prima di passare alla consueta rassegna musicale, vi informiamo che il 3 marzo alle ore 18, in diretta Zoom e Facebook, si terrà il terzo webinar di Società Civile per la Palestina, dal titolo Palestina, campagne globali per i diritti umani. Partecipano Rivka Barnard, responsabile del programma Spazio Civico di War on Want, e Fadi Kuran, direttore delle campagne di Avaaz. L'incontro Campagne globali per i diritti umani in Palestina si terrà online in inglese con traduzione simultanea in italiano e in arabo e sarà incentrato sui successi e le difficoltà delle campagne messe in campo dalla società civile per richiamare l'attenzione sulla responsabilità di Israele per le violazioni dei diritti del popolo palestinese. Troverete il link al webinar sul blog di Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Per venire ora alla consueta rassegna musicale di oggi, ascolterete Palestinian Dabke. Dabke è un'antica danza popolare levantina che ha avuto origine da una regione del Medio Oriente che comprende i paesi di Giordania, Libano, Palestina e Siria. Il Dabke combina danza circolare e danza di linea ed è eseguita per tradizione ai matrimoni e in altre occasioni gioiose. Storicamente il Dabke rappresenta la solidarietà, la cooperazione e l'importanza della comunità. Usare questa danza come una forma di protesta è davvero significativo per quanto riguarda la lotta per quello in cui credi. Lo scopo della danza è raccontare una storia. Una certa narrazione che consoliderà l'identità e le esperienze palestinesi. Un semplice messaggio di stringere le braccia, calpestare la terra e cantare e cantilenare all'unisono può inviare uno tsunami di sentimenti ed empatia verso una certa causa. Da semplice collaborazione e aiuto al prossimo, il Dabke si è rivoluzionato in un simbolo di amore, vita e lotta. A seguire Freedom for Palestine. Freedom for Palestine è una canzone di One World. One World è un collettivo di musicisti, artisti, gruppi di campagna e enti di beneficenza che lavorano insieme per aumentare la consapevolezza dell'occupazione israeliana della Palestina e della conseguente povertà e altre violazioni dei diritti umani. La canzone, pubblicata il 3 luglio del 2011, è una compilation simile a Free Nelson Mandela o Free the World. Nei suoi testi si parla di catastrofi, rifugiati, crimini contro l'umanità, campi di prigionia, occupazione, diritti umani e giustizia. A seguire Il giardino dei limoni, il trailer del film del 2008, una coproduzione Israele, Germania e Francia, diretto dal regista israeliano Eran Reiklis. Il film racconta la battaglia legale di una donna palestinese in difesa del proprio limoneto e affronta il lungo conflitto israelo-palestinese descrivendo l'inatteso coinvolgimento della moglie del ministro della difesa israeliano. Tratto da una vicenda reale che ha avuto per protagonista il ministro Saul Mofaz, che ottenne di tagliare il limoneto di Salma Zidane, una agricoltrice cisgiordana, nonostante il ricorso di questa alla Corte Suprema di Israele. Appoggiata da un giovane e bravo avvocato, indisce una battaglia legale che porta fino alla Corte Suprema, nonostante risulti evidente che la povera donna palestinese non potrà mai sconfiggere in tribunale lo Stato israeliano. E infatti, dopo i primi gradi di giudizio, le viene persino interdetto l'accesso al frutteto, con il conseguente deperimento delle piante sotto i suoi occhi impotenti. Se non l'avete visto, andate a vedere il film. Continuiamo poi, come abbiamo iniziato, con la dabka. Prima una danza dabka eseguita ad un matrimonio tradizionale dal gruppo El Funon Palestinian Dance Troupe per l'album Zayel. E per finire, Dancing Around Palestine, un ballo dabka registrato però in 18 città e luoghi della Palestina storica durante l'estate del 2011. Le città sono Al-Khalil, Hebron, Betlemme, Calandia, il checkpoint, Birzeh, Gerico, Nablus, Tulkarem, Jenin, Tabaria, Nazareth, Kalkilia, Gerusalemme Al-Quds, Jaffa, Haifa e Acca. Nel corso delle generazioni il dabka dance è diventato per alcuni una forma di protesta creativa. Dopo il massacro di Gaza, che ha ucciso più di 2000 palestinesi, 30 ballerini attivisti hanno eseguito la tradizionale danza dabka palestinese nel cuore del British Museum e in una banca centrale di Londra, il Barclays. Tradizionalmente gli attivisti esprimono le loro preoccupazioni attraverso marce, proteste e occupazioni. Usare la danza come forma di protesta per sfidare lo status quo è qualcosa di nuovo, è un approccio unico per catturare davvero l'attenzione del pubblico. In questo caso il dabke viene usato come forma di resistenza culturale. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah! Illegal occupation, violence

جان صفقة جان صفقة جان جان جان لا صفقة ظل ولا صفقة عار فلسطين عربية يا أحرار فلسطين عربية يا أحرار